già la chitarra fa zoom, zoom, e la gran cassa fa boom, boom. Ogni cowboy si ride, sta in finestra già sta, mentre il valzer fa zoom, zoom. Nessun fucile fa boom, boom. Nessuna freccia fa dum, dum. La diligenza va in pace, sapete perché? Conosco un cowboy laggiù nel Far West che corre a cavallo da ovest ad est. Quel grande signor terror dei Sioux è alto tre spanne non più. Non porta fucil, pistole non ha, è un soldo di cacio di rara bontà. Sapete con che conquista i Sioux? Col valzer del zoom pappa zoom, zoom, zoom. E ippiaie, ippiaio, queste parole tradurvi non so. E ippiaio, e ippiaie, su ripetete con me. Conosco un cowboy laggiù nel Far West che corre a cavallo da ovest ad est. Vi aspetta laggiù in mezzo ai Sioux col valzer del zoom pappa zoom, zoom, zoom. Avete mai provato a ballare un valzer come lo balliamo noi cowboy? È semplicissimo. Una pistola in una mano, una pistola nell'altra mano. E la dama come la tiene? È vero, mi sono sbagliato. Basta una pistola sola. Dunque, un passo a destra, ai! Un passo a sinistra, ai! E la dama è liquidata. Se ne cerca un'altra, se non la si trova, pianti tutto. Vai al bar e dici: ehi, già, è una birra. E ippiaio, e ippiaie, questo succede laggiù nel Far West. E ippiaio, e ippiaie, su ripetete con me. Conosco un cowboy laggiù nel Far West che corre a cavallo da ovest ad est. Ti aspetta laggiù in mezzo ai Sioux col valzer del zoom pappa zoom, zoom, zoom. Quel zoom pappa zoom, quel zoom pappa zoom, non posso scordarlo mai più. Evviva il Far West che canta laggiù col valzer del zoom pappa zoom, pappa zoom, pappa zoom, pappa zoom, pappa zoom.